Storielle. Un giorno un operaio riceve nella busta della paga 150 lire invece che 90 lire. Contentissimo dello sbaglio, corre a casa e lo mostra alla moglie. Questa stupita gli domanda se ha fatto straordinari. No, le risponde. Una volta tanto ho incassato le ritenute invece della paga. Quest'ultima è la più bella, ma dicono che venga dalla Germania. Accidenti. Neanche più il monopolio delle barzellette ci vogliono lasciare quelle sanguisughe. Si trovano sopra un aeroplano un francese, un inglese, un italiano, un tedesco. L'aeroplano ha un guasto e comincia a perdere quota. È necessario liberarsi dalla zavorra. Buttati i bagagli e tutte le cose superflue non è sufficiente. Bisogna che uno si salvi per il bene degli altri. Il francese generosamente si offre al grido «Vive la France!» si getta giù a capofitto. Ma non basta ancora. L'inglese allora cavallerescamente si fa avanti, mormora con gravità «God save the king!» e si lancia nel vuoto. Ma neanche questo sacrificio è stato sufficiente. Allora balza in piedi coraggioso e deciso il tedesco, alza solenne l'invocazione «Heil Hitler!» e poi afferra l'italiano e lo getta di sotto. È truce e potrebbe essere significativa, ma io voglio finirla a modo mio. L'aeroplano non poteva salvarsi, poiché aveva il meccanismo irrimediabilmente guasto. Neanche l'ultimo alleggerimento poteva riequilibrarlo, e poi il tedesco, con la sua ultima brutalità, ha dato il colpo finale, e l'aeroplano è precipitato al suolo, sfracellandosi con il suo ultimo superstite. Ma i tre, che si erano sacrificati, erano forniti di paracadute, e giunti a terra, si sono rincontrati insieme e si sono stretti la mano. Viva l'ottimismo!